2024 di Enrico Pagliarini. Questa è la puntata del 1 giugno 2013, benvenuti o bentornati a 2024, io sono Enrico Pagliarini, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, ogni settimana ci interroghiamo e cerchiamo i migliori esperti in Italia e non solo in Italia per capire come la tecnologia ci sta cambiando la vita. Naturalmente non solo la vita privata ma anche il nostro lavoro. La tecnologia sta sicuramente negli ultimi anni cambiando moltissime cose, a partire dagli smartphone che ci aprono mille mondi. Ogni settimana scopriamo nuove applicazioni che possiamo fare con gli smartphone. Ma non è solo questa tecnologia su cui ci interrogheremo oggi. Oggi parleremo ampiamente di droni. Spesso quando parliamo di droni facciamo riferimento e molti dei nostri ascoltatori pensano subito al settore militare. Beh, oggi non parleremo certo di militari e di droni militari utilizzati prevalentemente in zone di guerra, parleremo invece dell'ambito civile, perché in quel segmento del mercato, soprattutto i cosiddetti mini e micro droni, stanno cambiando moltissime cose. Questo è un settore estremamente interessante. Bene, per intervenire in diretta il nostro numero verde è 800240024, potete scegliere anche l'SMS 349-238-6666 o anche tutte le altre modalità per connettersi con 2024, ovvero l'email 2024@radio24.it, Twitter e anche la nostra pagina Facebook. Inizierei da una notizia che arriva da Bruxelles, l'annuncio fatto da Neelie Kroes, che è il commissario europeo all'agenda digitale, ha annunciato che la Commissione proporrà l'abolizione delle tariffe di roaming all'interno dei 27 paesi europei. Le tariffe di roaming, sapete, sono quelle tariffe che vengono applicate quando un telefonino di un altro paese effettua una telefonata o riceve una telefonata all'interno di un paese diverso rispetto al quale ha il contratto quel telefonino, dove è registrata quella SIM. Allora, questo sarebbe il calendario secondo la Commissione europea. 2014, approvazione delle norme, azzeramento delle tariffe di roaming nel 2015 o al massimo nel 2016. La cosa sarà tutt'altro che semplice, perché sicuramente perché l'industria avrà qualcosa da dire. Nel 2014 il caso vuole che ci siano le elezioni europee e io sono d'accordo con quelli che ritengono questa essere una mossa più che altro elettorale. Certo, è una cosa positiva, ma l'Unione Europea dovrebbe agire in questo modo anche in molti altri settori. Invece quello delle tariffe roaming, visto che è un argomento molto sensibile, visto che tocca le tasche di molti cittadini che vanno e vengono da un paese all'altro, questo viene spesso utilizzato. Cosa buona, ma dovrebbero fare la stessa cosa anche in altri ambiti. In ogni caso va dato atto all'Unione Europea di aver tagliato più volte le tariffe, il taglio prosegue. Attualmente da luglio dello scorso anno è in vigore un tetto massimo per la trasmissione dati, che è la cosa che interessa oramai molto di più rispetto alle chiamate a molti cittadini, 70 centesimi di euro per megabyte, che scenderà a 45 centesimi dal prossimo luglio e a 20 centesimi dal 1 luglio 2014, e l'Unione Europea vorrebbe abolire queste tariffe di roaming. Allora, c'è un'altra notizia interessante della settimana, perché come del resto ampiamente previsto il Consiglio d'amministrazione di Telecom Italia ha approvato il progetto di separazione della rete. Un argomento di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, sottolineando quanto può essere potenzialmente importante questo. Nei prossimi mesi continueremo anche noi a parlare di questa scelta di Telecom Italia, che adesso però coinvolge moltissimi attori. Sicuramente l'Agicom, l'autorità per le comunicazioni, sicuramente la Cassa Depositi e Prestiti, che dovrebbe essere un investitore importante in questa nuova società che verrebbe creata per la gestione della rete d'accesso al network di Telecom Italia, principalmente naturalmente il network che serve per raggiungere internet. Poi ci sono gli altri operatori, che cosa, alcuni hanno già parlato, ma che cosa diranno gli altri operatori, quale sarà la loro posizione, e non ultimo anche il governo che seppur non sia direttamente coinvolto, perché Telecom Italia è un'azienda privata, anche se fortemente regolamentata e notificata essendo ex monopolista, sicuramente il governo dovrà dire qualche cosa. Governo che ha parlato anche oggi per bocca del Presidente del Consiglio Enrico Letta e ha detto, lo ha solo detto, ci sono le condizioni nei prossimi giorni per fare partire la missione Agenda Digitale per il Paese. Quindi segnatevi queste parole e vedremo, visto che i prossimi giorni non saranno 15 o 20, dovrebbero essere anche meno. Ci sono le condizioni nei prossimi giorni per fare partire la missione Agenda Digitale per il Paese. Benissimo, vedremo sicuramente che cosa succederà. Adesso cambiamo argomento, parliamo di Vodafone che ha presentato una soluzione molto interessante. Si chiama Rete Unica, è un nuovo servizio che rende sicura la rete. Allora, è una buona idea, è frutto di investimenti tra l'altro pari a 10 milioni di euro, il tutto è partito dall'Italia, anche se Vodafone è un operatore globale, qui i lavori sono stati fatti per la prima volta nel nostro paese, questa è una cosa positiva, spesso accade nel settore della telefonia mobile che noi siamo innovatori, ma è bene non appoggiarsi e coccolarsi sugli allori. Allora, gli operatori parlano spesso di servizi che vanno aggiunti alla sola connessione ad internet, questo è un esempio e ben vengano molti altri esempi. Allora, prima di parlare di questo servizio, diamo qualche numero. Allora, in Italia ci sono circa 32-33 milioni di smartphone. Molti di questi smartphone sono connessi alla rete internet. Quanti? Ne abbiamo parlato con Filippo Renga, che è coordinatore degli osservatori mobile della School of Management del Politecnico di Milano. Stiamo parlando di un fenomeno che ormai è diventato di massa. In circa 5 anni, quando è iniziato a nascere e esplodere, siamo arrivati a 20 milioni di italiani che navigano attraverso il telefonino e per cui ciò attraverso degli smartphone, per cui sta diventando veramente un fenomeno di massa e probabilmente non siamo ancora arrivati alla piena adozione, perché parliamo di 50 milioni di italiani che hanno un telefonino, utilizzano un telefonino, e questo è il valore a cui andrà questa diffusione, per cui è estremamente importante, un fenomeno estremamente importante. A questo si stanno aggiungendo anche gli oggetti che sono connessi e questo sta ampliando la dimensione del fenomeno del nuovo internet, che ha molti punti di accesso, ha molte modalità di accesso, è sempre più frequente proprio attraverso il mobile, perché noi lo consideriamo la nostra estensione digitale del corpo umano. Quanto si allontana da noi il cellulare? In una giornata quasi, forse lo metto sul comodino quando vado a dormire, e questo in qualche modo rende anche lo strumento una porta d'accesso per cogliere da me elementi fraudolenti o raccogliere da me magari anche solo l'identità digitale, che in questo momento anche quella dei social network sta diventando uno strumento per interagire e magari a fare anche transazioni, acquistare, e questo è estremamente importante, va gestito. Allora, molti sanno che per navigare sarebbe utile avere installato sul proprio computer un antivirus, un pacchetto software che ci garantisce la sicurezza. Non tutti lo fanno, pochi hanno la stessa consapevolezza per il terminale mobile. Quanti sono gli italiani che hanno sul proprio smartphone o sul proprio tablet un antivirus? In molti pensano infatti che lo smartphone sia più sicuro, e invece sappiamo benissimo che gli attacchi e i software dannosi sono oramai presenti anche per le piattaforme mobile, soprattutto per Android, che è cresciuto moltissimo e soprattutto grazie alla diffusione, se uno è un hacker e vuole combinare qualche danno, va sicuramente a colpire i software più diffusi. Allora, in generale possiamo dire che qualunque sia il modo con cui ci connettiamo alla rete internet, dovremmo avere un qualsiasi tipo di protezione, sia che ci colleghiamo dal nostro computer, sia che lo facciamo da tablet o da smartphone. Ma visto che installare un antivirus, tenerlo aggiornato, può essere, oltre che una scocciatura, anche un costo, perché è vero che ci sono soluzioni gratuite, ma non tutte le soluzioni gratuite sono adatte magari all'uso che noi facciamo, e quindi spesso vanno spesi denari per acquistare un buon antivirus. Allora, da molto tempo, se ricordate, noi abbiamo detto, anche alcuni nostri esperti hanno detto, bisognerebbe inventarsi un sistema per rendere invisibile all'utente questo servizio, cioè deve essere integrato da qualche parte senza che noi dobbiamo fare tutte queste operazioni. Per proteggere tutti gli adulti, ma soprattutto e sempre più spesso i bambini durante la navigazione. Allora, questa settimana Vodafone ha presentato un servizio che si chiama Rete Sicura. Ne abbiamo parlato con Alessandra De Carlo di Vodafone. Allora, Rete Sicura è intanto il risultato di molti mesi di studio, di innovazione e di partnership con degli attori chiave nel mondo della sicurezza, ed è una piattaforma di sicurezza che protegge la navigazione dei clienti sia su rete mobile che su rete fissa Vodafone da pericoli online, pericoli che possono riguardare virus, malware, furto dei dati personali e tutte quelle minacce che normalmente i clienti col diffondere della navigazione e dell'utilizzo degli smartphone, dei tablet e dei PC trovano online, quindi sia quando pagano che quando si divertono su internet, quando si registrano ai siti o anche quando per esempio i nostri figli vanno su siti non appropriati. Rete Sicura protegge tutto questo, quindi ha due grandi funzionalità. La prima è quella appunto della protezione da virus, malware e pericoli online, per cui ti notifica se stai accedendo ad un sito pericoloso in questo senso e ti blocca il virus, e tu a quel punto puoi decidere se proseguire oppure, come più probabilmente è più corretto, non andare su quel sito perché può infettarti il device. La seconda grande funzionalità è il cosiddetto parental control. Qui non esiste una parola italiana più semplice, purtroppo, ma il concetto è i nostri figli possono navigare sicuri perché io genitore posso settare con una semplice configurazione online sul sito di Vodafone in quali ore possono andare online e su quali siti possono andare o non andare. Perché addirittura anche bloccare la navigazione. Assolutamente sì, gli orari di navigazione, relegare gli orari di navigazione soltanto ad alcune fasce orarie. Qual è però la grossa novità? Che questo tipo di funzionalità agiscono direttamente sulla rete Vodafone, quindi il cliente, il consumatore non deve scaricare un'applicazione, non deve scaricare un antivirus, non ha bisogno di installare delle cose sul proprio device, ma solo per il fatto di aver scelto di navigare sulla rete Vodafone è protetto. Quindi l'innovazione è molto legata al fatto che, per questo diciamo siamo i primi, è la rete stessa ad essere sicura. Quindi potremmo dire che stiamo parlando di antivirus che molti italiani installano sul proprio computer e ancora pochi italiani installano sullo smartphone, che sta in rete, quindi è l'antivirus in the cloud, nella rete. Esattamente, o ancora più semplicemente è la rete stessa che è sicura e tu non hai bisogno di fare assolutamente niente, puoi anche non esserne nemmeno consapevole. La nostra speranza è che i clienti si accorgano il meno possibile che la rete sicura c'è, perché saremo in grado di pulirli e di, come dire, di proteggerli ogni giorno senza che loro debbano nemmeno rendersene conto, e quindi direi che diciamo un po' l'obiettivo era quello ancora una volta di creare innovazione ma farlo in modo semplice. Quanto costano questi servizi? Allora, Rete Sicura la lanceremo al costo di 1 euro al mese per tutti i clienti che vorranno, con il loro pacchetto di navigazione acquistato da Vodafone, aggiungere la funzionalità di sicurezza. Lo daremo però incluso, quindi gratuitamente, ai clienti Relax, che sono i nostri clienti abbonamento di più alto valore. Questo vale per la rete mobile. Quando partirà questo servizio? Questo servizio partirà il 24 di giugno su tutta la rete mobile Vodafone e a partire da settembre anche sulla rete fissa, e quindi sulla DSL e sulla fibra di Vodafone. Nel caso appunto del servizio sulla rete fissa, anche questo sarà incluso nelle nostre offerte di rete fissa, quindi sarà gratuito. Sarà gratuito. Io posso decidere però di non avere questi servizi? Assolutamente sì, si possono attivare e disattivare in qualunque momento utilizzando un semplice link sia da mobile che da PC. Stiamo parlando di un servizio che è solo dedicato al consumatore, al consumer, o anche per le aziende, per i professionisti, partite IVA, eccetera? Anche per professionisti e partite IVA, ovviamente le esigenze di utilizzo sono diverse, saranno meno interessati al parental control, più interessati alle tematiche di sicurezza e di protezione dai virus, però la rete sicura è sicura per tutti, anche per i nostri clienti partita IVA. Per il business ci saranno delle garanzie piuttosto robuste, immagino. Scusate, questo tipo di soluzione di sicurezza è per tutti i clienti consumer e business, individui. È ovvio che poi le corporate e le aziende hanno degli ulteriori livelli di sicurezza e degli ulteriori servizi che sono più relativi alla cloud o altri servizi di protezione che Vodafone dà e che vengono poi customizzate sulla base delle specifiche esigenze del cliente. Però si montano tutti su una rete che nasce sicura. Un'ultima domanda, voi siete un gruppo internazionale, globale, in tutto il mondo, non so in quanti paesi esiste Vodafone, questo è un servizio che invece nasce solo in Italia, come mai? Nasce per ora. È una buona cosa, eh? Certo, no, infatti siamo abbastanza orgogliosi di questa cosa. Nasce in realtà in Italia, ma noi stiamo già lavorando con tutti i nostri colleghi del gruppo Vodafone e con il gruppo Vodafone per portarlo in tutti gli altri paesi del gruppo. Quindi è un orgoglio essere il primo mercato a lanciarlo, ma sarà assolutamente esportato in tutti gli altri paesi. Quindi comunque per adesso, quando io vado all'estero, la rete dei vostri partner europei non è sicura come la vostra in Italia? Non ancora. Allora, devo dire che l'ho detto prima, ma lo ribadisco, mi sembra una buona idea, un'ottima idea, un servizio che tra l'altro io farei anche pagare, non avrei incluso gratuitamente, avrei aspettato un pochettino a includerlo gratuitamente negli abbonamenti, ma mi sembra una ottima idea. Sapete che quando vanno tirate le orecchie agli operatori, io sono il primo a mettere il dito e tirare l'orecchio, però devo dire che in questo caso mi sembra una buona idea. Dunque, questo è 2024, il nostro numero verde per chiamarci, soprattutto per intervenire nella parte di approfondimento dedicata ai droni, che mi piacciono moltissimo, è un settore che sta esplodendo anche in Italia. Dicevo, il nostro numero verde 800240024 per le vostre domande, i vostri dubbi, le vostre considerazioni, oppure 349-238-6666. Ci hanno ragione i nostri ascoltatori a dire che certo Linux è più facile, ma Linux è una minoranza di utenti, a parte il mondo business dove ha una forza incredibile, ma nel mondo consumer purtroppo la situazione è questa, quindi è inutile continuare a dire Linux è più sicuro. Certo che è più sicuro, ma lo usano in quattro. Dunque, ci fermiamo per un minuto, questo è 2024, riprendiamo tra poco. 2024. Oggi in regia ci aiuta Gianmarco Ferronato, ringraziamo per l'aiuto in regia anche Benedetta Acri. Rosa si occupa del nostro centralino, al nostro numero verde 800240024. Potete raggiungerci anche utilizzando Twitter, @_Pagliarini. Tra poco parleremo anche di alcuni numeri che riguardano Twitter e anche alcuni numeri che riguardano Facebook. Potete cercare la nostra pagina di 2024. Allora, parliamo di smartphone. Mentre Samsung annuncia che verrà lanciato sul mercato anche un mini Galaxy S4, Motorola questa settimana ha svelato che entro l'anno arriverà un nuovo prodotto chiamato Moto X. Hero device is coming out. It's going to be called Moto X. Motorola is actually, has always quello che sentite Dennis Woodside, il manager scelto da Google per guidare la controllata Motorola acquisita nel 2011. Woodside ha detto che il nuovo telefono sarà quasi interamente made in USA, molto interessante, e farà parte di una strategia volta a ridurre il costo degli smartphone. Avrà tecnologia in grado di anticipare quali applicazioni l'utente vorrà utilizzare. It's more contextually aware of what's going on around it. Come dice Woodside, sensibile al contesto è proprio la parola chiave. Digital News. Adesso abbiamo alcune notizie della settimana. Alla conferenza State of the Net che si chiude oggi a Trieste, Blogmeter ha fatto il punto sull'uso dei social network in Italia. Facebook ha 22,7 milioni di utenti ogni mese, Google Plus ne ha 3,8, LinkedIn 3,5 e Twitter 3,3. Non so se mi spiego, Facebook 22 milioni e poi scendiamo. Quello che ne ha di più è Google Plus, che ha meno di 4 milioni di utenti. AudiWeb ha pubblicato i dati di audience online nel mese di aprile 2013, che presenta la stima dell'utilizzo effettivo di internet da parte degli italiani che si collegano attraverso un computer da casa o dall'ufficio. Allora, queste sono stime, quindi sono dati comunque da prendere abbastanza con le pinze, ma ci danno un'idea, anche perché appunto casa o ufficio sono oramai una parte. Ci sono, come abbiamo detto poco fa, 20 milioni di italiani che si collegano da smartphone, magari non solo da smartphone. Comunque i dati AudiWeb ci dicono che gli utenti che hanno usato internet almeno una volta nel mese sono poco meno di 29 milioni, mentre sono 14,3 milioni le persone collegate nel giorno medio, quindi gli utenti più attivi. Digital News. Secondo l'osservatorio B2C, quindi Business to Consumer, Netcom e Politecnico di Milano, nel 2013 il settore del commercio elettronico crescerà del 17% per un fatturato stimato attorno agli 11,2 miliardi di euro. Gli italiani che acquistano online sono oggi 13,6 milioni, dato aggiornato fino a aprile 2013. Un dato interessante riguarda l'export, cioè aziende italiane che vendono all'estero grazie ad internet, un numero che cresce del 23% grazie soprattutto ai settori abbigliamento e turismo. Altri dati freschi, mi rendo conto che molte di queste notizie sono piene di numeri, ma i numeri ci indicano e descrivono cosa sta succedendo nel mondo. Allora, altri dati freschi di settimana arrivano dallo Yab Europe, cioè l'associazione che rappresenta il mondo della pubblicità online. Esiste anche lo Yab Italia, lo Yab in tutte le nazioni. Allora, questo è un segmento che continua a crescere. Nel 2012 ha raggiunto un valore di 24,3 miliardi di euro, in crescita dell'11,5%. Crescono molto sia il video che il mobile, quindi la pubblicità realizzata con video e la pubblicità realizzata su piattaforme mobili. Nella classifica dei paesi dove si spende di più per la pubblicità su internet, al primo posto c'è il Regno Unito con un valore di 6,6 miliardi di euro, poi c'è la Germania con 4,6 miliardi, la Francia con 2,8 miliardi, Russia 1,5 miliardi, mentre l'Italia si trova al quinto posto con un valore di 1,4 miliardi di euro. E concludiamo queste notizie della settimana. Beh, anche questo è un dato interessante. Regno Unito 6,6 miliardi, Italia 1,4 miliardi. Comunque siamo quinti, non siamo ventiduesimi, quindi insomma è comunque un dato positivo. All'inizio della settimana si è parlato di un nuovo progetto al quale starebbe lavorando Google per portare internet a banda larga nelle regioni subsahariane o nel sud-est asiatico, comunque in generale in regioni poco raggiunte da internet, regioni remote, ma dove abitano un sacco di persone. Pensate all'Africa, ci sono molti milioni di persone, più di un miliardo di persone, e quindi molte di queste persone stanno cominciando e vorranno collegarsi ad internet. Allora, l'idea è quella di utilizzare una rete di palloni aerostatici o addirittura dei dirigibili usando frequenze televisive non utilizzate. Questa è una tecnologia che si sta cominciando a utilizzare in molti altri paesi, i cosiddetti white spaces, cioè ci si infila negli spazi lasciati liberi dalle frequenze televisive, incrociando questi dati con un link satellitare. Allora, in realtà questa non è un'idea di Google, perché negli Stati Uniti c'è già da qualche anno. Io ho studiato alcuni dossier di una società che si chiama Space Data, quindi Space Data, perché sono dati che arrivano dallo spazio, che usa proprio una flotta di palloni aerostatici per diffondere il segnale internet in zone remote, soprattutto in quelle regioni degli Stati Uniti centrali dove la telefonia mobile non copre bene il territorio, perché ci sono campi che sono lunghi parecchi chilometri, ma in questo caso dove l'agricoltura può sfruttare internet per controllare macchinari o altri servizi. Allora, Space Data ha fatto accordi con gli agricoltori per recuperare i palloni aerostatici che rimangono in cielo per un numero limitato di ore, quindi il pallone vola per un po', trasmette il segnale internet a terra, poi cade e ne viene lanciato un altro. Però ha fatto un accordo con gli agricoltori per recuperarli. Allora, invece va citato un altro progetto molto più complesso, molto più grande, secondo me molto più interessante e anche molto più costoso, a cui partecipa Google. Si chiama O3B Network, è una società attiva dal 2007. O3B sta per Other 3 Billion, quindi gli altri 3 miliardi di persone che andranno collegati ad internet. Allora, lo scopo è portare internet appunto a questi 3 miliardi di persone. Ci sono partner finanziari, il principale partner tecnologico è SES, conosciuto con il nome di Astra, uno dei più grandi operatori di satelliti nel mondo. Si tratta di una rete di satelliti che lanciano il segnale internet a terra e poi da alcune stazioni radiobase il segnale viene poi distribuito a terra dagli internet service provider locali via wifi oppure dagli operatori telefonici locali. I satelliti saranno 8, lavoreranno in un'orbita a 8.000 km di altezza, quelli geostazionari sono a 36.000 km, questi a 8.000, quindi anche la latenza, la velocità del segnale è molto più snella, più veloce. Allora, i primi 4 satelliti verranno lanciati con una Soyuz dalla Guyana francese il 24 giugno, quindi questo servizio sta partendo. E visto che abbiamo parlato di spazio, abbiamo ancora pochi secondi, vi ricordo che da questa settimana è a bordo della Stazione Spaziale Internazionale un nuovo equipaggio di 3 persone, quindi sono 6 a bordo della stazione. Tra loro c'è anche Luca Parmitano, che è uno dei 6 nuovi astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea. Va ricordato che l'Italia di questi 6 astronauti ne ha 2. C'è, oltre a Luca Parmitano, anche Samantha Cristoforetti, che volerà sulla Soyuz e arriverà alla Stazione Spaziale Internazionale il prossimo anno. Bene, tra poco parliamo di droni e di mini droni. 2024. La seconda parte di 2024, sono le 16:07, il nostro numero verde per chiamarci in diretta 800 24 0024. Naturalmente vi ho annunciato il tema di cui ci occuperemo oggi e molti dei nostri ascoltatori avranno detto: vabbè, ma che domande vuoi che ti facciamo sui droni, che sono un argomento ancora poco conosciuto. In effetti è vero, ma oggi vi sveleremo alcune cose molto interessanti. L'idea ci è venuta, mi è venuta leggendo, allora, da un po' di tempo che mi documento, parlo con persone, abbiamo dedicato anche recentemente una breve intervista a questo problema. Allora, questa settimana però ho letto che in Germania le ferrovie tedesche utilizzeranno alcuni droni dotati di videocamera all'infrarosso per registrare e individuare chi dipinge le pareti dei treni nei depositi all'aperto durante la notte. Quindi il problema dei graffitari è un problema anche in Germania. Allora, si tratta di un test, naturalmente, che dovrebbe iniziare nelle prossime settimane. Verranno utilizzati piccoli droni che appunto hanno questa videocamera e volano a bassa quota. È sicuramente uno dei tanti utilizzi che possono essere fatti di questi strumenti, che non sono nuovissimi, però direi che per il grande pubblico stanno diventando popolari forse in questi mesi e lo saranno sempre più nei prossimi mesi. Stefano Sgrelli è fondatore, uno dei fondatori di Salt & Lemon. Benvenuto 2024, Stefano. Buongiorno a tutti. Allora, noi ti abbiamo invitato perché tu da qualche anno ti stai occupando di droni. Devo dire che ho scoperto con mio grande piacere, ma con un po' di stupore, che oramai anche in Italia ci sono parecchie persone, parecchie piccole società che hanno cominciato a utilizzare questi strumenti. Quindi è vero che il grande pubblico non conosce questi strumenti, ma sono già, forse tra gli addetti ai lavori, già popolari. Esagero? Sì, beh, diciamo adesso... Cioè sì, esagero? Sì, allora penso che i droni sono una novità, diciamo, abbastanza per tutto il, diciamo, per tutto il mondo. Anche se in effetti diciamo sono tecnologie che sono già ben collaudate in ambito militare. In Italia siamo, diciamo, anche noi stiamo sperimentando queste tecnologie e le usiamo in tantissime applicazioni diverse. Sì, io ho detto anche nella prima parte di 2024 che oggi non parleremo del settore militare, perché quando parliamo di droni molto spesso facciamo riferimento, anche perché le uniche notizie che riguardano i droni arrivano da attacchi militari fatti in aree del mondo dove c'è la guerra, oppure in Israele. Molto spesso in quei casi stiamo parlando di droni che sono molto più simili a un piccolo aereo o in alcuni casi anche a un grande aereo. Stiamo parlando di macchine molto grandi, molto complesse, molto costose. Parliamo di macchine che un Predator costa 2-3 milioni di dollari. In questo caso invece stiamo parlando di macchine, infatti li definiamo mini droni o micro droni, e spesso assomigliano a dei piccoli elicotteri con più rotori, quindi non solo il rotore classico dell'elicottero, ma stiamo parlando di strumenti che pesano pochi chili. Allora, Stefano, ci puoi descrivere di cosa stiamo parlando? Che tipo di macchine stiamo parlando? Sì, beh, allora, in generale un drone è un qualsiasi veicolo che non ha il pilota, quindi può essere sia simile a un aeroplano, i cosiddetti ala fissa, per cui hanno le ali attaccate al corpo e dei motori separati, oppure possono essere come gli elicotteri, quindi cosiddetti ad ala rotante. Sono praticamente dei piccoli elicotteri con 4, 6, 8 motori, quindi si distinguono perché sono di solito fatti un po' a stella, no? Quindi hanno un corpo centrale con dei bracci, e alla fine di questi bracci ci sono poi dei motori elettrici e queste elichette più piccole. abbastanza piccolini, diciamo, possono avere un raggio di un metro, diciamo, no? Quindi una specie di diciamo una specie di disco volante, sì, grosso piccolino, più o meno un metro. Io so che per normativa vengono divisi tra quelli che pesano meno di 20 kg e quelli che pesano più di 20 kg fino a 150 kg, poi oltre i 150 kg vengono paragonati, insomma, a velivoli tradizionali. Tu hai fondato Salt and Lemon, sale e limone, che è una società dal nome poco tecnologico, perché voi siete nati nel mondo del video, del cinema, e voi da qualche tempo utilizzate i droni, che è una delle prime applicazioni che viene fatta con queste macchine. Che cosa ci fate con i droni? Soprattutto poi questi droni li avete comprati, li avete fatti, si trovano sul mercato? Beh, diciamo, quando noi abbiamo iniziato a occuparci di questo aspetto non si trovavano. Adesso, diciamo, cominciano alcune aziende, soprattutto in Germania, dove sono molto attivi, in America, cominciano a esserci anche aziende che vendono proprio i droni fatti. Però fare un drone è solo metà dell'opera, perché poi alla fine il drone va pilotato, e pilotare un drone non è una cosa proprio semplicissima. Quindi, diciamo, mettersi in casa un drone significa mettersi in casa uno strumento, ma anche proprio la possibilità poi di utilizzarlo e con la sicurezza necessaria a non combinare disastri, diciamo. Noi ce lo siamo costruito perché, appunto, come dicevi tu, noi siamo un'azienda di produzioni cinematografiche, documentari, e tempo fa, appunto, alcuni dei nostri clienti hanno cominciato a dire: ma perché non cominciate a usare queste robe? Addirittura venivano le prime, è capitato alcuni anni fa, che venivano dall'America questi qui a fare delle riprese con questi droni, e noi dicevamo: ma come, devono venire dall'America? Ci mettiamo noi a farceli. E quindi ce li siamo costruiti. Non è il nostro mestiere costruire i droni, ma siccome poi io sono un po' anche impallinato della tecnologia, mi piacciono tutte queste novità, eccetera, eccetera, ci siamo messi lì e abbiamo fatto questa esperienza. Diciamo che noi lo utilizziamo soprattutto in ambito, appunto, del cinema, del documentario, la pubblicità, dove il drone permette di fare delle riprese con delle prospettive diverse, dare delle idee, diciamo, rappresentare i stessi soggetti in modo estremamente diverso, innovativo, che attira molto l'attenzione. È anche molto meno costoso rispetto all'elicottero, ad esempio, o all'aereo. Certo, uno dei motivi che, diciamo, porta i droni a essere così, diciamo, utili, ma soprattutto fra qualche anno secondo me saranno dappertutto, cioè sopra le nostre teste voleranno droni di tutti i tipi e tutte le fogge, perché sono mezzi piccoli, sono mezzi che permettono di fare tantissime cose a costi che prima erano assolutamente improponibili. Improponibili. Diciamo. Senti, quanto costa un drone? Perché io ho visto su internet, ci sono macchine non professionali, che sono quasi forse dei giocattoli, che costano addirittura poche centinaia di dollari o poche centinaia di euro. Però poi ho visto prezzi di tutti i tipi. Ci fai un po' una panoramica? Beh sì, dipende sostanzialmente un po' da come è fatto questo strumento. Cominciamo a dividerlo per dimensione. Per esempio, ci sono droni piccolissimi che addirittura stanno nel palmo di una mano, e possono essere i giocattolini che si comprano e che a Natale uno regala al figlio per poi farcelo disintegrare cinque minuti dopo contro il soffitto. Ma ci sono anche droni che, appunto, come per esempio quelli che facciamo noi, che utilizziamo noi adesso, che pesano 10 kg più o meno, quindi siamo in quell'intorno lì, e che hanno dei componenti estremamente sofisticati e estremamente anche costosi. Droni come il nostro adesso cominciano a essere disponibili, diciamo, fatti, completi, ma costano dai 20 ai 30 mila euro. Sì, addirittura leggevo, appunto, del progetto delle ferrovie tedesche che utilizzeranno droni che, probabilmente perché sono equipaggiati con videocamere particolarmente sensibili, comunque stiamo parlando di 60 mila euro. Ci risentiamo tra circa un minuto. Adesso c'è la viabilità, quella tradizionale. Probabilmente fra qualche anno dovremo avere un servizio di viabilità che ci avvisa anche se c'è traffico di droni sull'autostrada. Tra poco. 2024. Le 16:17 minuti, questo è 2024, il nostro numero verde 800240024, potete raggiungerci come stanno facendo molti nostri ascoltatori via SMS, anche Twitter o Facebook. Devo dire che le evoluzioni dei social network hanno abituato molti nostri ascoltatori a scrivere e sempre meno a telefonare. Questa è una deriva, ma del resto lo vediamo dall'esperienza di tutti i giorni. Se uno guarda un giovane, telefona praticamente nulla con uno smartphone, ma invece messaggio con WhatsApp, Viber, Skype, eccetera eccetera, un sacco. Filippo Gemma, General Manager di GM Spazio, benvenuto a 2024, Gemma. Buonasera. Buonasera a lei. Lei è in Germania poco fa. Sì. Stefano Sgrelli, che è l'ospite che abbiamo ascoltato poco fa, che riascolteremo tra poco, ci ha detto che in Germania sono particolarmente attivi in questo settore e lei sta andando in effetti ad una conferenza che si terrà lunedì o forse lunedì-martedì per parlare di droni. A proposito di utilizzi, prima Stefano Sgrelli ci ha parlato di uno degli utilizzi con quali si è iniziato a utilizzare i droni, cioè quello cinematografico, di queste bellissime riprese che vengono fatte con questi droni sofisticati, molto stabili, che possono fare delle riprese molto belle. Quali sono gli altri settori? Lei, immagino, so che parlerà anche di altri utilizzi che vengono fatti con i droni. Certo. Diciamo che i droni possono avere campi di applicazione molto ampi in relazione alle possibilità che offrono, montando tipologie di sensori diversi per specifiche applicazioni. Quella a cui ha fatto riferimento lei poco fa è una rilevazione classica di tipo ottico, fatta con cineprese di alta, bassa, media risoluzione, ma oltre a questo tipo di sensori si possono montare sensori all'infrarosso, si possono montare sensori chimici, si possono montare misuratori elettromagnetici, quindi le applicazioni sono le più svariate possibili. Noi abbiamo iniziato un paio di anni fa facendo, per conto di un primario ente nazionale che fa distribuzione di energia, una serie di rilievi sperimentali sulle loro reti a media e bassa tensione. Abbiamo volato circa per 80 km, per 100 km, un'ottantina di ore di volo, con un drone acquistato in Germania come clienti di questa ditta, di cui nel frattempo siamo diventati distributori. Successivamente abbiamo messo alla prova queste macchine, che comunque sono macchine estremamente professionali, macchine dotate di GPS, macchine dotate di sistemi di navigazione guidata, quindi fondamentalmente macchine dotate di capacità di volare anche in modalità automatica, per far sì che si possa poi verificare ciò che si desidera senza bisogno di pilotarli continuamente, ma semplicemente supervisionando quello che la macchina sa che deve fare, perché gli si è caricato un programma che non è solo denso di informazioni relative alla rotta, ma anche a come i sensori a bordo devono comportarsi, quindi come la macchina o la cinepresa devono inclinarsi, dove devono puntare, come devono zoomare, cosa devono andare a rilevare. Sì. E questi droni, ormai di elevatissima qualità, sono in grado di trasferire in tempo reale anche le informazioni che osservano. Quindi da ciò nascono applicazioni sempre più sofisticate anche a supporto dell'attività civile. Ad esempio, applicazioni a supporto dei vigili del fuoco qui in Germania vengono utilizzati abbastanza frequentemente perché offrono una visuale totalmente diversa rispetto a quella da terra. Pertanto i reparti che cercano di circoscrivere un incendio riescono a verificare molto bene dove le fiamme si stanno spostando, piuttosto che cercare di guardarle di profilo. Sì. Poi sicuramente uno degli utilizzi che viene già fatto, ma verrà sempre più fatto, è quello in aree magari inquinate o pericolose. Volevo chiedere a Stefano Sgrelli se tu ritieni che, come molti ritengono, che questa tecnologia stia aprendo nuove strade, soprattutto per nuove professioni, nuove attività, nuove aziende. Io ritengo che sicuramente in futuro, data l'espansione e la grandissima opportunità di utilizzare queste tecnologie in tantissimi campi, sicuramente ci saranno ci sarà la possibilità per tante aziende di operare in questo settore, per esempio offrendo servizi diciamo, noi ci siamo già mossi un po' in questo senso, oltre al cinema stiamo facendo una, diciamo, ricerca con alcuni enti qua della regione Piemonte, legati all'università, sull'agricoltura di precisione, per esempio, che è uno dei campi molto, molto, molto importanti. Attraverso la fotografia all'infrarosso fatta dall'alto si riesce a determinare di un determinato campo, una coltivazione, un vigneto, eccetera, eccetera, diciamo la salute della pianta, perché la pianta nell'infrarosso, diciamo, è particolarmente attiva e rilevabile. Ecco, noi pensiamo che questo tipo di servizi potrà un domani essere molto, molto utile, per esempio, ai coltivatori. E se esisteranno delle aziende che avranno maturato queste esperienze, potranno offrire un servizio completo, cioè un agricoltore non ha bisogno di diventare un esperto di droni o un esperto di infrarosso, semplicemente chiama, uno arriva lì, gli fa la foto, analizza i dati rilevati con questi sensori e gli fornisce già un'interpretazione, cioè il suo campo sta bene, c'è poca acqua, acqua, deve aumentare la quantità di concime in quell'area nord, a sud, a est, eccetera, eccetera. Il vostro drone atterra o decolla autonomamente e automaticamente? Sì, volendo sì. Diciamo che dipende anche qui dalle applicazioni. Se dobbiamo fare delle riprese per il cinema, siamo diciamo praticamente obbligati ad utilizzarlo manualmente, quindi il pilota lo fa volare, decolla a terra da uno spazio sicuro che viene recintato, diciamo, per evitare, diciamo, l'ingerenza di pubblico. Uno dei nostri problemi è che quando si alza in volo questo drone si creano capannelli di persone che sono tutti molto incuriositi da questo stranissimo affare volante, quindi abbiamo il problema di tenere alla larga un po' le persone, perché di solito il regista chiede dei movimenti di macchina e quindi dei movimenti del drone che sono particolari e sono difficilmente programmabili, però sicuramente il nostro drone ha una serie di meccanismi che sono soprattutto meccanismi di sicurezza che fanno anche questo. Per esempio, uno dei meccanismi di sicurezza che abbiamo e che hanno molti, per non dire tutti quelli professionali, è che se il pilota perde il controllo del mezzo perché si spacca il telecomando, succede qualche cosa, il drone in volo è in grado di capire che ha perso il contatto con il pilota e autonomamente ritorna alla base e riatterra esattamente nel punto in cui era decollato. Volevo tornare da Filippo Gemma. Lei alla conferenza alla quale sta andando parlerà lunedì anche di un utilizzo che mi ha incuriosito, cioè dell'utilizzo dei droni per intercettare i pirati che attaccano le navi, e questo è un problema molto grave perché, visto che buona parte dei commerci avviene via nave, magari noi aspettiamo un prodotto dalla Cina, quella nave viene attaccata dai pirati e il nostro prodotto non arriva. Adesso ho fatto un caso specifico. Che cosa è possibile fare, Gemma? Assolutamente vero. Quello che noi cerchiamo di fare con queste soluzioni è praticamente offrire un ulteriore supporto a coloro i quali necessitano di una capacità di osservazione che è quanto più possibile ampia e dettagliata, sfruttando un ulteriore mezzo che è il drone. Il drone a bordo monta un certo tipo di sensore, che può essere una camera, una cinepresa, e sfruttando la capacità che gli equipaggiamenti GPS del drone e i parametri che misura in continuazione, cioè i famosi parametri che rientrano in quelle che si chiamano le scatole nere, anche i droni le hanno dei registratori a bordo a stato solido, molto leggeri, non paragonabili a quelli degli aerei di linea, ma comunque registrano tutti i parametri di bordo che gli permettono poi di stimare in maniera puntuale dove l'immagine è stata presa, e pertanto, riallacciandoci a un caso tristemente famoso per noi italiani, se un oggetto del genere fosse stato usato per monitorare quello che succedeva durante quella famosa notte in cui l'Erika Alexia ha avuto un assalto dei pirati e i nostri Marò hanno in qualche modo cercato di difendere questa nave, si sarebbe potuto testimoniare in maniera chiara e inequivocabile dove la barca dei pirati era, geograficamente parlando, e quindi non ci sarebbero potute essere contestazioni di acque non territoriali, territoriali o quant'altro, perché l'immagine diceva che era lì. E quindi sarebbe stata comunque di ausilio a discriminare la cosa, molto probabilmente favorendo un chiarimento senza bisogno di tutto quello che è successo nel frattempo. Molto chiaro, Gemma. Stefano, in tutta Italia ci sono comunque già professionisti che si occupano di questo tema? Beh sì, diciamo i droni professionali di oggi sono un po' il punto di contatto di due mondi molto distanti. Il mondo, diciamo, degli strumenti militari molto professionali, altissimi, eccetera, e il mondo poi dell'aeromodellismo, perché in fondo questi strumenti che usiamo noi sono un po' di quella derivazione lì. Alcuni dei pezzi, dei componenti che si usano oggi nei droni sono degli aeromodelli modificati sostanzialmente, quindi è vero che ci sono tantissimi appassionati che costruiscono questi aeromodelli e hanno raggiunto un livello tale di sofisticazione che possono tranquillamente, diciamo, fornire servizi. Sì. E arrivare tranquillamente a livelli di professionismo. Stefano, quindi, bisogna avere una licenza. Tu hai una licenza per maneggiare questi attrezzi? Sì, diciamo, quando si arriva a, come dicevi tu prima, l'ENAC ha una bozza di regolamento, cioè sta regolamentando il tema dei velivoli senza pilota, cosa che in alcuni paesi è stato già fatto, adesso l'ENAC lo sta facendo anche in Italia. Esiste una bozza di regolamento che, come dicevi tu, divide questi droni, chiamiamoli così, sotto i 2 kg vengono considerati, chiamiamoli giocattoli. 20 kg. Allora, ci sono tre casi. Okay. Sotto ai 2 kg vengono considerati giocattolini, chiamiamoli, okay, e hanno una regolamentazione molto semplice. Dai 2 ai 20 kg vengono considerati già strumenti professionali e hanno una regolamentazione piuttosto severa. Sotto i 105, poi dai 20 ai 150 hanno una regolamentazione ancora più, diciamo, stringente, complessa, in funzione anche della loro propria pericolosità, dipende da quanto cosa ti casca in testa, se ti casca in testa, in termini di chili. Quindi ci vuole una regolamentazione che è ancora in bozza, quindi non è definitiva. Sì. Allora, a proposito di regolamentazione, vi facciamo ascoltare un'intervista che ho realizzato con Enea Guccini. L'ingegnere Guccini è il direttore centrale standardizzazione sicurezza dell'ENAC, perché l'ENAC sta lavorando ad una normativa per regolamentare questo nuovo mercato. A livello comunitario intendono regolamentare questi aerei a pilotaggio remoto o droni, come spesso si ricorda commercialmente, al di sopra dei 150 kg. La Comunità Europea ha lasciato invece agli Stati nazionali regolamentare i prodotti sotto i 150 kg. Noi ritenevamo in passato che l'interesse, al di là del campo militare, nel campo civile si dovesse attestare su macchine di peso abbastanza alto, quindi oltre 50, 60, 70 kg, mentre abbiamo avuto proprio in questi ultimi 2-3 anni una forte esplosione sui micro droni, in particolare su mezzi a pilotaggio remoto al di sotto di 20 kg, con una forte insistenza, devo dire, sia delle industrie di produzione ma anche degli operatori aerei ad utilizzare a titolo commerciale questi mezzi. Quindi abbiamo avuto una necessità impellente nell'ultimo anno a cominciare a buttare giù delle regole per regolare questo mercato che stava esplodendo in maniera indiscriminata e in taluni casi anche mettendo in crisi un po' la sicurezza. Parliamo di sicurezza del volo, non un po' per chi vola, perché questi mezzi vanno a interferire e possono andare a interferire anche con il traffico aereo tradizionale, ma anche per chi sta a terra, perché molto spesso non operano in ambienti decentrati, isolati, ma anche in situazioni dove ci sono assembramenti di persone. Qui parliamo durante le manifestazioni sportive, durante le manifestazioni politiche, per la sorveglianza del territorio, e spesso volando anche su siti molto sensibili. Sì. Quindi abbiamo avuto la necessità di mettere giù delle regole, e noi abbiamo un regolamento in bozza che attualmente è finita la consultazione e lo stiamo rivedendo. Possiamo prevedere una data indicativa per definire l'entrata in funzione, in vigore di questo regolamento? Noi riteniamo entro la fine dell'anno. Entro la fine dell'anno, e questo per fare attività private, che poi l'attività privata con i droni non ha molto senso, perché a questo punto siamo ai margini di ciò che è un'area modello, che chiaramente è regolato da norme diverse. Di solito il drone viene usato per attività commerciale. Sull'attività commerciale dobbiamo essere molto attenti, perché è un settore, effettivamente è un servizio che si fa, a volte sono servizi anche molto importanti, pensiamo anche alla protezione civile, all'intervento di protezione civile, all'attività fotografica, alla sorveglianza di siti, alle riprese aeree, anche televisive, come ho detto poc'anzi, attività che si va in qualche modo va a interferire in quelle che sono le attività oggi già, certo, di direzione generale. Senta, che sono certificate e soggette a licenza, tra, certo, l'altro. Le faccio una domanda sui principi generali che esistono già all'interno di questa bozza, giusto per farli capire, sì, ai nostri ascoltatori. Semplifichiamo, sì, naturalmente molto per farci capire, insomma. Guardi, noi abbiamo previsto come fanno anche in altri stati, perché la regolamentazione, appunto, essendo lasciata a livello nazionale, ha delle differenze tra Stato e Stato. Noi cerchiamo di applicare un sistema abbastanza pragmatico, cioè che dia sicurezza ma non sia eccessivamente pesante. Innanzitutto abbiamo diviso i campi di peso tra mezza pilotaggio remoto al di sotto dei 20 kg e superiore ai 20 kg. Al di sotto dei 20 kg il sistema è abbastanza liberalizzato e sicuro allo stesso tempo. Al di sotto di 20 kg l'autorizzazione che dà l'ENAC è basata tipicamente sotto forma di dichiarazione che l'utente fa, ci deve dare un certo numero di evidenze per quanto riguarda il mezzo, l'ambito delle posizioni di volo ed il pilota, e sulla base di questo diamo delle autorizzazioni. Chiaramente applichiamo un criterio di valutazione di rischio, in inglese noi usiamo il termine risk assessment, cioè dipende dall'ambiente operativo dove questo mezzo opera, perché se il mezzo opera in un ambiente isolato dove non può fare danni a nessuno, né agli altri aerei che volano, né a terra, diciamo l'autorizzazione sarà molto semplice. Coloro che vorranno volare, e questa è la parte un po' più delicata, in ambienti estremamente popolati, su siti molto sensibili e così via, diciamo i requisiti saranno un po' più forti, quindi dovremo fare delle valutazioni un po' più dettagliate. Al di sopra di 20 kg sono già dei mini aeroplani, sempre pilotaggio remoto, la normativa si avvicina chiaramente con un determinato distinguo a quelli che sono gli aerei tradizionali, quindi il mezzo riceverà una sorta di certificato di navigabilità, noi lo chiamiamo permesso di volo, il pilota avrà delle autorizzazioni ad hoc e lo spazio aereo su cui potrà volare potrà essere spazio aereo che inizialmente sarà vista e in un prossimo futuro sarà anche cosiddetto BLOS, cioè al di là della vista del pilota. Questo oggi può essere fatto solamente se lo spazio è segregato, cioè se sappiamo che non volano altri aerei, ma la tendenza in futuro, e questa è la grande sfida, di fare volare questi aerei in uno spazio aereo non segregato, quindi insieme agli altri aerei tradizionali, quando il pilota a terra non vede più l'aeromobile. Certo. Senta, queste autorizzazioni immagino siano gestite da dei sistemi automatici, quindi in tempo reale. Il tempo per quelli più piccoli è il tempo necessario di valutare le application, le domande che ci fa l'utente, e devo essere molto onesto, è un settore che stiamo affrontando adesso, su cui non abbiamo esperienza, ma su cui non ha esperienza Europa, quindi ci dovremmo dare degli strumenti estremamente veloci e rapidi, perché quando daremo un'autorizzazione questa finirà online, quindi i sistemi cartacei così verranno abbandonati e quindi qualsiasi utente potrà andare sul nostro sito e vedere se il determinato operatore o ragione sociale o comunque so sia è autorizzato a queste operazioni. Questo per evitare che ci sia un utilizzo indiscriminato, che purtroppo dalle informazioni che giungono oggi l'utilizzo viene fatto oggi commerciale, ma direi abbiamo a che fare con operatori che probabilmente oggi non sono molto a conoscenza delle regole dell'area, delle regole della navigazione aerea, quindi ritengono di poter usare questi mezzi al di fuori di qualsiasi regola. Certo, che credono, sì, comprando questo su internet, di poter fare quello che vogliono. Certo, questo è comprensibile. Quindi lei dice che stiamo, diciamo, almeno in una prima fase, non stiamo parlando di sistemi di riconoscimento automatico, cioè io faccio partire il mio drone e automaticamente questo riceve delle informazioni, comunica e riceve informazioni dall'ENAC? No, no, diciamo, le comunicazioni vengono fatte dall'operatore che intende utilizzarlo, il quale dovrà dare, secondo determinati schemi che stiamo predisponendo, tutta una serie di informazioni che verranno valutate, dopodiché gli si dà lo K. Noi riteniamo che siano un procedimento abbastanza veloce. Teniamo presente che chi utilizzerà questi mezzi li vorrà utilizzare per scopi commerciali, non per divertirsi, e quindi intende farne un'attività di lavoro, quindi una volta utilizzata l'autorizzazione questa varrà per un certo periodo, di cui stiamo ancora discutendo quanto, perché poi potrebbe andare a scadenza o meno. Facendo la votazione iniziale, poi lui nell'ambito delle operazioni che ho autorizzato lo potrà fare liberamente, non è che ogni volta che si alza poi da terra ci deve dare le comunicazioni, questo non più. Chiaro, chiaro. Quindi questo vale nella fase iniziale. Sì, sì, vale sia per quelli inferiori ai 20 kg che quelli superiori ai 20 kg. Per i superiori ai 20 kg dobbiamo dare un riconoscimento al mezzo. Guardi che ci sono dei mezzi, dei droni al di sotto i 20 kg, ma superiori ai 20 kg, che cominciano ad avere delle prestazioni molto forti, quindi cominciano ad essere di solito al di sopra i 20 kg sono mezzi anche sofisticati dal punto di vista strutturale e dell'avionica di bordo, quindi quelli riceveranno un certificato come mezzo, il pilota sarà autorizzato, ci spostiamo su una categoria molto diversa rispetto a quelli al di sotto dei 20 kg. Devo dire che oggi l'interesse al 95% dei casi è sotto i 20 kg. Avere un drone con 8 rotori, eccetera, al di sopra dei 20 kg è già raro. Al di sopra dei 20 kg abbiamo dei mezzi che hanno una configurazione quasi di tipo tradizionale. Sono dei piccoli aerei lunghi 2-3 metri con le ali e così via. I droni, come lei avrà visto, sono una specie di elicotteri a più rotori che sono molto, diciamo, versatili per l'uso in uno spazio limitato, per fare riprese di sorveglianza del territorio, di trasmissione dati, anche riprese aeree e applicazioni in ambienti ostili. Questo è molto importante, specialmente in quegli ambienti dove è inopportuno mandare l'uomo, perché sono estremamente pericolosi. Questi mezzi avranno una grossa diffusione in questi settori, monitoraggio incendi, e la sorveglianza di impianti nucleari, di impianti elettrici, la sorveglianza dei cavi elettrici che oggi viene fatta con elicotteri con l'uomo a bordo, attività estremamente critica dal punto di vista della navigazione aerea, che sì, diciamo, non esponendo più l'uomo a queste operazioni prenderanno sicuramente nei prossimi anni piede. Quindi noi riteniamo che ci sarà una grande diffusione e un nuovo campo di applicazione, speriamo anche nuovi posti di lavoro, certo, vista la crisi che attraversiamo. Certo. Le faccio un'ultima domanda. Dal punto di vista del controllo di questi strumenti, che cosa c'è e che cosa ci sarà? Cioè, i radar tradizionali riescono a intercettare questo traffico? Su questi mezzi ci saranno dei transponder che comunicano la loro posizione? Che cosa si sta facendo? Cosa si farà? Quando parliamo di mezzi che andranno fuori dalle aree segregate, lei ha ragione, questi mezzi devono poter, il pilota di terra, poter parlare anche con il controllore del traffico aereo, i mezzi saranno muniti di trasponder, i mezzi dovranno essere visti e così via. E poi ci sarà la tecnologia del cosiddetto Sensed Avoid, tecnologia che si sta specializzando proprio in questo momento, in modo tale, un po' come succede per i sistemi TCAS degli aerei tradizionali, cioè quando i mezzi aerei si vedono tra di loro ci sono i sistemi automatici che portano a divisarsi l'uno con l'altro. Questo succede nell'aviazione oggi da trasporto, per cui quando due mezzi si stanno avvicinando per una collisione tutto è sottratto al pilota, ci sono i sistemi automatici che fanno deviare due aerei, sì, uno da una parte e uno dall'altra, in modo tale anticollisione, certo. Questi sistemi dovranno essere anche sistemati su questi mezzi, perché spesso per le dimensioni che hanno potrebbero non essere visti dall'altro aereo tradizionale, sia per dimensione ma anche per condizioni meteo. Ecco, sì, quindi parliamo di quelli superiori ai 20 kg. Sicuramente quelli che voleranno nello spazio aereo e non più a vista. Finché siamo nelle condizioni a vista, che poi sono la gran parte dei mezzi di interesse attuale, devo dire sinceramente, la casista è un tantino più semplice, cioè il pilota li vede, li controlla, evita gli altri aeromobili a vista, infatti finché li vede lui li può gestire, non è previsto che li gestisca al di fuori, cosiddetto VLOS, visual line of sight, cioè lui li deve vedere. Senta, i radar riescono a vederli? I radar, cioè se entra un drone all'aeroporto, diciamo così, e per le quote di cui parliamo adesso, no, non riescono a vederle, questo è il problema. In futuro invece quelli che volano in quota, sicuramente non possiamo pensare che un mezzo di 2 kg possa volare a quote molto alte. Certo. Lì parliamo di mezzi più impegnativi che fanno delle missioni particolari. Quindi mi sta dicendo che se un piccolo drone di 15 kg entra sulla pista di un aeroporto è un po' un casino, un caos. Sì, ma no, quello è un problema. Sì, guardi, al momento noi prevediamo che questi droni siano a distanza di 8 km dalle zone di traffico aereo, di avvicinamento agli aeroporti, devono stare fuori, perché guardi, noi abbiamo avuto recentemente anche delle situazioni di aeromodelli che hanno invaso lo spazio aereo vicino alle zone di aeroporti. Lì pensi ci sono degli aeromodelli che vanno a velocità di 200-300 km all'ora oggi, non sono più quelle cose di balsa che si costruivano una volta. Ci sono degli aeromodelli che sono delle bombe volanti, modelli che riproducono aerei militari che viaggiano a 250-300 km all'ora, qualche volta hanno invaso lo spazio aereo vicino agli aeroporti creando qualche problema, perlomeno qualche allarme. Stefano, poi faccio la stessa domanda anche a Gemma. C'è il rischio che molte persone credano che questi siano dei giocattoli e creino qualche problema? Beh, i problemi li hanno già creati. Ah, li hanno già creati. Quindi, diciamo, forse è anche per questo che siamo tutti in attesa che l'ENAC standardizzi questo regolamento. Perché come in tutti gli scenari, come in tutti i panorami, diciamo la stupidità è universale, quindi ci sono persone che non si rendono conto di quello che hanno in mano e fanno delle cose piuttosto, sono casi che diciamo sono finiti anche sul giornale, quel drone che un aereo dell'Alitalia che stava atterrando a, non mi ricordo se Linate o Malpensa, ha avvistato un drone nelle vicinanze della pista di atterraggio. Ecco, quando uno vola vicino a una pista di atterraggio di un aeroporto con un drone, non saprei come definirlo, ma sicuramente non mette in pericolo solo quell'aereo lì, ma ha messo in pericolo tutto il settore dei droni, perché viene screditata e si genera un atteggiamento di paura, di diffidenza verso questi oggetti che sembrano incontrollati, incontrollabili. Quindi ci deve essere una regolamentazione, bisogna fare chiarezza su chi può fare che cosa. Naturalmente bisogna anche evitare l'eccesso opposto, nel senso che bisogna evitare di avere una regolamentazione che impedisca di lavorare a chi deve fare con professionalità e con cautele il proprio lavoro. Sì. Gemma, lì in Germania il problema l'hanno già risolto? Allora guardi, io approfitto proprio di questa sua domanda per dire che noi abbiamo comprato questa macchina in Germania e la prima cosa che hanno fatto i costruttori, ci hanno fatto fare un corso di pilotaggio, ci hanno istruito secondo delle regole ben precise delle autorità aeronautiche tedesche, ci hanno consegnato un'abilitazione al pilotaggio di quel veicolo e ci hanno consegnato il regolamento nazionale, dopodiché ci hanno consegnato l'abilitazione che loro hanno ricevuto per quel velivolo è la stessa cosa che gli ha concesso il governo francese e il governo inglese. Noi purtroppo siamo un po' in ritardo, facciamo anche tanta confusione in Italia, perché il concetto degli aeromodelli è una cosa ben diversa. Lei pensi, come diceva giustamente il collega, se mi permette di chiamarlo così, gli aeromodelli a volte arrivano a volare accanto agli aeroporti. Bene, lei pensi che l'Aeroclub d'Italia ha come normativa di comportamento un comportamento per cui gli aeromodelli possono avvicinarsi fino a 1,5 km dall'aeroporto, possono volare fino a 1000 metri di quota, 3000 piedi, Noi con i droni siamo limitati a 1500 piedi, quindi 500 metri, e siamo limitati a 5 km dagli aeroporti. Quindi a volte viene anche da pensare che si lascia un po' troppo spazio a chi gioca e si lascia poca possibilità di fare business a chi si prende responsabilità e ci lavora. Quindi in fondo che questa bozza arriverà a fine anno non fa che renderci felici, perché almeno sapremo quali sono i nostri vincoli, quali sono i nostri limiti, piuttosto, come è successo a me, di sentirmi dire ma lei facendo questo lavoro è un pirata. Si fa per dire, io faccio un lavoro che in tante altre parti d'Europa fa tanta gente, in maniera onesta e in maniera chiara. Alzare un velivolo che è un radiomodello e farlo arrivare a 120 km all'ora è una cosa abbastanza facile, perché ci mettono dietro persino dei propulsori a razzo, ma nessuno li regolamenta, ci si basa un pochettino sul buon senso, mentre chi fa il lavoro come lo facciamo noi chiede proprio questo, venga data una regolamentazione chiara e che ci sia rispetto della cosa, perché a noi non può che far piacere che ci sia una regola da rispettare, e mi auguro che anche chi fa aeromodellismo si allinei a questa mentalità, perché se vuole giocare non lo fa accanto agli aeroporti, perché è folle. Chiarissimo. Discorso del genere. E getta discredito anche su quelli che lo fanno molto serenamente e molto onestamente. Chiaro, messaggio molto chiaro. Sicuramente l'ENAC, l'intenzione dell'ENAC con questa bozza che è stata anche aperta la consultazione, immagino che sia questo. Speriamo insomma che il lavoro venga fatto per bene. Mi faccia dare a Cesare un minuto. L'ENAC è propositiva in questo senso. Io il 6, il prossimo 21, vedrò due dirigenti dell'ENAC per discutere proprio di una cosa del genere. Io faccio parte di un'associazione che si chiama UASIT, che è una delle due associazioni italiane che raccoglie gli operatori, e siamo costantemente a cercare di dargli una mano. Cioè, chiaro. Parte nostra e anche da parte loro c'è la volontà di farlo. Sì. Sgrelli, anche voi fate parte di un'associazione, giusto? Non so se è la stessa o l'altra. Noi facciamo parte dell'altra, quindi rappresentiamo, come al solito, in Italia non c'è un'associazione, il 100% si chiama Astorpass, e anche essa raccoglie diciamo gli operatori professionali di questo settore, proprio perché abbiamo delle esigenze comuni che dobbiamo portare di fronte alle all'autorità, e anche noi vogliamo che questa cosa sia assolutamente regolamentata. Sentiamo Claudio che ci chiama da Macerata. Claudio, buonasera, benvenuto, grazie. Buonasera, complimenti per la trasmissione. Volevo solamente un'informazione. Dunque, se io privato acquisto un drone, mettiamo per qualsiasi esigenza, anche lavorativa, con i regolamenti attuali, cosa vado incontro se per esempio ho uno sconfinamento oppure vado a un'altezza superiore, eccetera, eccetera? Allora, detta così, la domanda fatta così, la domanda penso che richieda qualche dettaglio in più. Gemma, possiamo dire qualcosa in pochi secondi? Guardi, prego. Io posso dirle questo. Quando in Germania mi hanno dato l'abilitazione e mi hanno dato i regolamenti, mi hanno detto in maniera molto chiara, non si vola sopra i centri abitati, non si vola sopra le caserme, le prigioni, non si vola sulle infrastrutture, ma eventualmente al lato a distanza di sicurezza, quindi autostrade, ferrovie, quant'altro lo deve fare non in verticale ma a fianco, non si vola su tutti i siti militari e non si vola intorno agli aeroporti a una certa distanza. Ora, viviamo nell'Europa Unita, una norma che viene applicata in uno Stato e che viene validata dal Ministero della Difesa di quello Stato, penso che facendo quel Ministero della Difesa capo all'ente che è l'Agenzia Europea della Difesa, in qualche modo sia mutuabile anche altrove. Prendere esempio da cose fatte già da altri, casomai migliorandole, non può che essere la cosa più semplice da fare per fare in fretta e fare bene. Bene, Gemma, anche se in Italia non c'è una regola, io mi sono adeguato a quella tedesca. Certo, però la regola ci sarà, quindi insomma speriamo che venga costruita per bene. Gemma, io la ringrazio e le auguro buon lavoro, magari le diamo appuntamento in Italia una volta tornato, quando ci sarà qualche dettaglio. Sarò in Italia il 5 di giugno. E adesso aspettiamo qualche tempo, se non parliamo solo di droni, se no. Assolutamente d'accordo, grazie a voi dell'opportunità di averne parlato. Grazie, buon lavoro, grazie. Un'ultima battuta con Stefano Sgrelli. State lavorando a qualche cosa che verrà fatta col drone? Quindi qualche immagine, qualche documentario fatto col drone? Beh, allora, noi abbiamo fatto diverse cose, per esempio, non so se hai visto l'ultimo film di Claudio Bisio, quello che si chiama Benvenuto Presidente, la scena finale, quella del bacio di Bisio che chiude il film, l'abbiamo girata noi col nostro drone. Abbiamo anche realizzato adesso un film con Davide Ferrario, che è un regista importante qui piemontese. Il film non è ancora uscito, ma ci sono delle sequenze di Torino di notte girate con il drone che sono abbastanza suggestive, molto suggestive. E molto particolari. Io ringrazio Stefano Sgrelli, fondatore di Salt and Lemon. Buon lavoro, a presto. Grazie a tutti, buona giornata. Noi ci fermiamo per un minuto, riprendiamo e tra poco parliamo di una app molto interessante. A tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. L'ultima parte di 2024, parliamo spesso di smartphone. Un altro settore che subirà una trasformazione grazie agli smartphone è quello dei trasporti urbani. Allora, c'è molto fermento in tutto il mondo e nel settore dei taxi in tutta Europa, perché stanno nascendo, e sono già nate in molti altri paesi, ma direi stanno nascendo in Italia, app che rendono più efficiente, o dovrebbero, puntano a rendere più efficiente e facile da usare il servizio. Allora, questa settimana è stata presentata Easy Driver, che è scritto Easy Driver, un'app sia per Android che per iOS. Ne abbiamo parlato con uno dei fondatori di questa giovane startup, Tommaso Lazzari. Permette a ogni utente di poter prenotare la propria auto, per il momento solo quelle con autista, da ogni punto della città. Quindi voi per il momento vi siete specializzati sulle cosiddette noleggio con conducente. Esattamente. Senza spaventare le persone, stiamo parlando di automobili che in questo modo possono anche costare meno del classico noleggio con conducente, che ci porta magari a cifre molto elevate con auto meravigliose da un punto all'altro della città. Ma il vostro obiettivo è anche quello di raggiungere i taxi, giusto? Assolutamente sì, il nostro prossimo passo è quello di, stiamo parlando con dei radiotaxi per cercare di inserire anche i taxi all'interno della nostra piattaforma e permettere all'utente di scegliere se vogliono un'auto NCC, un'auto blu oppure un taxi a seconda delle esigenze. Senti, io ho detto che, e lo dico da qualche mese, questo è un settore che è particolarmente in fermento in tutto il mondo, direi. Assolutamente. Non sì. Solo in Europa. Per quale motivo un'applicazione che sta sullo smartphone rende questo sistema più efficiente? Quindi qual è il motivo poi che sta alla base di questo fermento un po' in tutta Europa? In tutta Europa sono nate tantissime start-up e tantissime aziende che si basano su un'applicazione che è aiutata dal GPS e permettono di prenotare un'automobile in maniera molto semplice. Beh, il concetto è duplice in questo caso, ossia si offre un servizio all'utente perché si può essere raggiunti esattamente dove si è senza dover cercare l'indirizzo, senza dover cercare i parcheggi dei taxi, senza dover cercare di raggiungere telefonicamente una centrale che a volte c'è, a volte è occupata cioè. Esattamente, ma permette altresì di riempire i tempi morti di queste auto, per cui se ci sono dei taxi o delle auto blu che stanno andando a Malpensa con dei clienti, non devono necessariamente tornare vuote, ma possono tornare con altri clienti che raccoglieranno una volta arrivati a Malpensa. Certo. Senti, ci spieghi molto semplicemente come funziona questa app, che è molto simile poi a tante altre che conosciamo che stanno avendo successo in Europa. Assolutamente sì. Il funzionamento, come dicevi appunto, è simile a tantissime altre. Basta schiacciare un tasto, il tasto principale dell'app, e si apre una pagina che permette di cercare le auto intorno alla propria posizione. Una volta che si è soddisfatti, che si trovano le auto e per cui si conoscono i tempi d'attesa stimati per avere queste auto, si può decidere se si è soddisfatti con il tempo d'attesa di chiamarle e farsi raggiungere da queste auto. Sì. E si paga con la carta di credito. Si paga con la carta di credito, la carta di credito è salvata all'interno dell'app e per cui alla fine del tragitto, quando si conosce appunto la distanza percorsa dall'auto, si paga automaticamente sì. Sulla carta di credito. Sì, tra l'altro questo è uno degli altri vantaggi, cioè è possibile non utilizzare il contante, non utilizzare una carta, a parte che a volte non si trova il taxi che accetta la carta di credito, ma ad esempio io che sono un amante della moneta elettronica e vorrei non avere più il contante, questo sicuramente è un sistema molto interessante. Devo anche dire che questi sistemi piacciono molto a tutti i nativi digitali, quindi questo è un trend inesorabile al quale dovremmo abituarci per i prossimi anni. Voi siete tutti italiani, siete quattro fondatori, giusto? Sì, sì. Tutti italiani, e mi è piaciuto molto, nel vostro sito c'è scritto orgogliosamente italiani. Esatto. Allora, sappiamo che qui in Italia, anche in questo caso, abbiamo delle leggi che sono a volte abbastanza singolari, a volte un po' fuori contesto storico, perché il mondo si sta trasformando e la digitalizzazione sta trasformando fortemente molti settori, anche questo, e poi ci si scontra con leggi che non c'entrano nulla con il mondo che vediamo. Devo dire che all'estero molte cose sono più facili. A questo punto lo dice, ma perché volete fare questa cosa proprio in Italia, visto che... Ma perché pensiamo che comunque in Italia noi abbiamo un vantaggio competitivo rispetto ad altre società. Altre società che arrivano dall'estero con magari una piattaforma più solida, più consolidata, però si vengono a scontrare con certe realtà che non conoscono in Italia e per cui sicuramente potrebbero avere delle difficoltà proprio in questo. Quindi voi dite, noi... essendo italiani ci muoviamo meglio nel nostro territorio. Esattamente. Senti, pensate o ritenete che nei prossimi mesi, già mesi, noi vedremo molte più applicazioni di questo genere anche sul mercato italiano, che trasformeranno... Io ho detto anche in passato che non mi immagino che nei prossimi anni ci sia più il concetto di radiotaxi, perché la tecnologia può tranquillamente sostituire, rendere più efficiente il sistema, e magari quelle persone si possono occupare di altro. Non ha senso parlare con una persona che poi fa l'annuncio a tutti i taxi, una roba medievale, diciamo così. Ma sicuramente queste app stanno proliferando, ne stiamo vedendo alcune che stanno nascendo ora, avremo dei colloqui con alcune di queste nella prossima settimana. Il concetto di radiotaxi è un concetto molto, molto radicato e molto vecchio, per cui molto sì, tradizionale. Quindi la trasformazione sarà lenta, difficile. Sicuramente sarà lenta, nel senso, come tutte le cose, per fare un cambiamento così radicale o si fa una rivoluzione. Sì. Che è una cosa che mi interessa molto e vale per questo settore, ma mi piace sempre prendere spunto da un settore per poi far capire quanto la tecnologia può cambiare tante altre cose. Il concetto di efficienza. Ci spieghi che cosa può fare un'applicazione di questo genere anche al di là del mondo dei taxi, perché insomma ci sono mille altri servizi che forse potrebbero essere resi più efficienti da applicazioni di questo tipo, magari non proprio la vostra, ma insomma il concetto poi è quello. No, la prima cosa a cui noi abbiamo pensato è sicuramente il radiobus che funziona a Milano, un servizio che funziona tutto a Milano, ma che diciamo ha dei problemi di riempimento sicuramente, di utilizzo. E probabilmente... Spieghiamo agli ascoltatori che non sono di Milano, questo è un servizio realizzato dalla società dei trasporti milanesi, dall'ATM, sono una specie di taxi collettivo che possono essere chiamati, prenotati via telefono. Voi dite, con un'applicazione cosa potrebbe succedere? Con un'applicazione si potrebbe consolidare il numero di persone che vogliono usare questo radiobus e soprattutto anche renderlo un po' più agile, diciamo, perché io magari non so esattamente a che ora esco da un locale, 6 ore prima, 7 ore prima. E invece con un'applicazione potrei fare qualcosa che è più in tempo reale, per cui se faccio una richiesta e ci sono altre 6 o 7 richieste che vanno più o meno nella stessa direzione, a quel punto potrei effettivamente veicolare la richiesta. Stessa cosa se io sono ad un evento, chiamo il taxi, con un'applicazione di questo genere l'applicazione potrebbe mettere insieme tutte le persone che vanno ad esempio nella stessa direzione, nello stesso albergo, fanno più o meno lo stesso tragitto. A volte io sono in una fila e magari davanti a me 4-5 persone più avanti c'è una persona che va nella stessa direzione, e il sistema, non essendo efficiente, fa sì che due auto vadano allo stesso posto. Esattamente. Sì, sì. Tu prima abbiamo fatto una chiacchierata molto interessante, le auto blu. Mi hai citato le auto blu, mi interessa questa cosa. Sì, è uno dei nostri sogni, appunto, è di lavorare per ottimizzare il numero di auto blu che al momento devono restare a disposizione dei parlamentari, dei ministri. Perché nonostante siano state ridotte, ce ne sono ancora molte e dico io tra parentesi, troppe, ma questa è un'opinione personale. Prego. Assolutamente, e con un sistema come il nostro diciamo che potremmo sicuramente ridurre di un buon 30% il numero di auto blu, perché quando, spiegaci come. Perché quando qualcuno va a un evento o a una riunione o ovunque debba andare, può aspettare. L'auto blu deve aspettare questa persona per tutta la durata dell'evento, della riunione, o va a una cena e la macchina deve stare ferma 4 ore ad aspettare questo parlamentare. Mentre con un'app del genere la macchina potrebbe andare da un'altra persona e nel tempo morto, e quindi trasportare qualcun altro e fare un altro servizio che al momento invece non può fare perché deve stare ferma ad aspettare. Sì, questo è un concetto importante anche in questo settore, che dovrebbe prendere spunto dalle compagnie aeree low cost. Il principio base delle compagnie aeree low cost è: l'aereo non deve stare fermo a terra, anzi deve stare il numero maggiore di ore in volo, perché solo in volo rende soldi e rende denaro. Tommaso, io ti ringrazio. Ricordiamo agli ascoltatori che anche se non stanno in una città dove il vostro servizio per il momento è partito a Milano, però tutti possono provare vedendo l'app, che è sia per Android che per iPhone, che assolutamente, per sì, iOS. Sì, adesso stiamo lavorando anche per svilupparla sulle altre piattaforme, ma per il momento è su Android e iOS, quindi sull'Apple Store e su Google Play. La base ufficiale di 2024 ci indica che la nostra trasmissione è terminata. Grazie come sempre ai nostri ascoltatori e grazie anche a tutti coloro che hanno votato nel corso degli ultimi mesi il nostro programma all'interno dello European Podcast Award, il premio europeo che 2024 ha vinto per l'Italia tra i migliori podcast e i podcast più scaricati sulla rete internet. Un premio che è stato aggiudicato sommando il voto della giuria popolare fatto attraverso internet e quello di una giuria tecnica. Bene, grazie come sempre per la vostra attenzione. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Questa è la versione podcast del nostro programma. Vi invito a lasciare un commento sulle piattaforme che utilizzate per scaricare il file MP3 della nostra trasmissione e magari anche di consigliare ai vostri amici, ai vostri parenti, ai politici, e così si danno una bella svegliata. Alcuni hanno capito, ma visto che la percentuale di quelli che hanno capito che con l'innovazione si cambiano le sorti di questo paese, beh, magari potete consigliare a persone che conoscete anche a livello locale di ascoltare 2024 con regolarità. Ringrazio Anita Panizza che ci aiuta in redazione durante la settimana. Io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungermi via mail, via Twitter, via Facebook o anche via telefono chiamando il centralino del Sole 24 Ore a Milano. Grazie ancora e appuntamento alla prossima settimana. 2024.